Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Hola. Ciao a tutti. Ciao. Allora, giovedì, non giovedì. Dici niente questa volta sulla settimana che sta arrivando la conclusione. Per me già, sono così già avanti oltre. Che sono già mercoledì della prossima. Allora, cominciamo con una cosa molto interessante che ti interesserà moltissimo. Ah, K, sì? Ti vedo già tutto fremente, è uno studio finlandese sui bambini di città e quelli di campagna. Ah, e dice ci sono che... città in Finlandia? Eh sì, anche qualcuna c'è, no? Vabbè, sì, forse hai ragione. Sono città, non lo so, sì sì. Hai ragione, già questo mi mette in crisi sugli studi, Helsinki, Turku, no? Turku. Vabbè, comunque ha dimostrato questo studio che i bambini di città sono molto meno a loro agio con la natura di quelli di campagna. Finland, Finland, Finland, the country where I want to be, pony trekking or camping or just watching TV. Finland, Finland, Finland, it's the country for me. Vabbè, che scoperta, è chiaro, un bambino di città è col ragno, non ha dimestichezza, lo schiaccia. Scusa, questo è uno studio, ne parlano i giornali, non è colpa mia, sempre a fare polemica. Fanno davvero, non so. Immagino di sì. Quanti che li soldi faccia... buttano via a intercettare, a fare gli studi? Guarda. I soldi nostri vanno lì a finire. I miei, anche miei. Ma anche finlandesi, soprattutto. Vabbè, comunque, dai, fanno queste ricerche, che ti devo dire? Vabbè, ma sembra che ricalchino i detti popolari, no? Che il bambino di città in campagna non sa come fare. Fatto, no? Magari si beccano anche i finanziamenti per queste robe qua. Madonna, sì, ma come? Poi se li spendono in bagordi, ma cosa? E ma poi scrivono una tesi di 50 pagine rimasticando nozioni di buon senso comune e hanno anche magari un premio. Sei sospettoso e dietrologo, sei proprio figlio di questa Italia della macchina del fango. Guarda che al giorno d'oggi non si sa. In ogni caso, abbiamo qui il bambino Alberto, che è un bambino di città, vero bambino Alberto? Beh sì, sono di Milano. Ecco, quindi tu con la natura hai un rapporto, diciamo, virtuale. La natura la guardo in TV. Ecco, hai sentito, K, il bambino Alberto la natura la guarda in TV, nei documentari. Meglio di niente. Sì. Vedi i leoni. Però smetteranno di fare i documentari appunto sui leoni. Tu invece faranno... in campagna vedi i leoni? No, vabbè, però vedi i grilli, quelle cose lì. Fra poco vedi, faranno, faranno fra poco i documentari al posto dei leoni, fanno vedere la campagna fuori Milano per spiegare ai bambini che al di fuori del loro appartamento esiste tutto un mondo verde. Che immagine non hanno mai fissa, visto. Magari inquadratura fissa di una un prato, collina, una collina, basta già quella, dai. No, però voi sapete. Avendo due genitori fuori di testa, mi è successo varie volte di avere incontri spiacevoli con la natura. Spiacevoli? Cioè? In vacanza, no? In boschi della Toscana, sulle rocce della Corsica, quindi serpenti, insetti. Io, rispetto ai miei amichetti dell'asilo, il contatto con la natura io ce l'ho avuto, quindi un po' la conosco. Sì, Tarzan. Poi, scusa, che discorsi sono, Drago? Natura, non natura? Tu vai ai giardinetti, compri un cane, tipo Tito, certo. Che adesso non c'è perché è rimasto a casa. A proposito, non c'è. Non sto bene. Che ha fatto il cattivo. Ha fatto il cattivo. Quindi anche c'è qualcuno. Vabbè, che comunque, fa il insomma, ti tutto. Prendi un cane, col cane vai ai giardinetti e vedi la natura. Vedi la natura. Merda di cane è natura, quindi. Certo. Questo era l'assunto di tutta questa cosa. Vabbè. Studi la salute del cane, la natura della sua... Vabbè, ma stiamo divagando e meno male che non c'è Tito, se no sarebbe intervenuto. Allora, lo studio finlandese, K, si conclude dicendo che l'ideale per i bambini di città sarebbe di fare qualche ora settimanale a scuola di orticoltura. A te piacerebbe, bambino Albi? Cioè, di cosa si tratta? Orticoltura. Zappare, concimare, piantare, potare. Insomma. Dai, lavorare la terra, bambino Aznavour, dai. Basta con sti nomi, Aznavour, un cantante. Allora, che mi chiamo Alberto. Vabbè, allora. Basta, lavorare la terra. Allora, cosa ne pensi? Lavorare la terra, E cosa? Ti piacerebbe invece di stare a sentire le parabole del Vangelo per ore e ore di Suor Dentona? Ti piacerebbe prendere la vanga, il rastrello, la zappa, eccetera, e far crescere, che ne so, peperoni, lattuga, sedani e finocchi? Che cosa hai detto? Hai detto finocchi, Drago. Oh, va bene tutto, ma i finocchi no. No, ma anche tu, scusa, i finocchi no. Nell'aria si insinua un profumino, mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame, eccomi in fila ad aspettare. Si fanno scommesse sul menù. Chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane. Ma il cuoco in vacanza c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Filosofi e pedagoghi sono tutti d'accordo, basta con le agende dei bambini piene zeppe di impegni come se fossero dei grandi manager, perché annoiarsi fa bene, soprattutto i bambini, lo scrive Repubblica, quindi è vero. Adesso Repubblica dovrebbe anche capire che annoiarsi fa così bene che ogni tanto il bambino d'avanzo potrebbe anche prendersi qualche giorno di ferie, stare a casa, sì, magari fa una doccia, insomma è sempre tutti i giorni lì che sparla del Premier, ma quanto scrive. Ma cosa c'entra adesso il bambino Giuseppe Stalin d'avanzo con quello che stavo detto dicendo? Repubblica, no? Cosa c'entra? Repubblica mica è solo d'avanzo, è un quotidiano che parla di tante cose, non solo di Berlusconi. Ah sì? Eh sì, vabbè. Comunque era ora che si dicesse che i bambini non devono avere l'agenda impegnata come Marchino. Anche tu da bambino eri impegnatissimo con corsi, attività extrascolastiche, anch'io ero vittima di queste cose. Nei tempi i genitori hanno sempre avuto un sacro terrore della noia, La noia corrompe. Giusto. Avevano paura che dall'ozio potessero nascere i vizi, Ma sono concezioni ottocentesche, con noi non sono nati, infatti non sono nati vizi. Ma noi abbiamo fatto il nuoto, judo, tutto quanto, e è andato benissimo, perfettamente in forma, dentro e fuori, dentro visibile e non visibile. Comunque ormai la nouvelle vague della pedagogia dice basta alle settimane in cui il bambino non ha nemmeno mezz'ora libera e predica il ritorno ai sani pomeriggi di svogliatezza e inattività. Però appena un bambino va dalla mamma e chiede mamma adesso cosa faccio, tutta la buona volontà crolla e la mamma va in panico. Infatti quello è il problema, però allegria, perché recentemente stanno nascendo dei corsi di noia. Corsi di noia, cioè tu vai lì, ti insegnano a non fare un tubo senza impazzire dal senso di colpo di vuoto, a seconda dei casi, perché ci sono quelli che inventano niente... certi corsi sono dei geni, mi piacerebbe inventare uno anche a me di questi ma noi corsi, cosa potremmo mai insegnare? Scusa. So, tipo come si fa a farsi pagare per dire cose senza senso 10 minuti al giorno, tipo una roba così. E ora bambini e tutti a casa. Palle sto traffico, ma l'amministratore dell'asilo non aveva promesso di intervenire. Sì, e tu gli credi? Ma sai com'è fatto, no? Io provo a chiamarlo, dici che risponde. Ma figurati. Proviamo. Vedi che suona. Ma sì, ma non c'è sempre a disposizione. Sì, pronto? Sì, pronto amministratore, siamo qui dall'asilo K e Drago, noi continuiamo ad aspettarla. Dov'è? In questo momento sono a un pranzo di lavoro. Sì. Dove stiamo per decidere alcune questioni fondamentali sulla prima infanzia. Bene, per esempio? Per esempio, durante alcune fasi del parto la manovra dovrà essere effettuata non più da ostetriche ma da robot. Sì, ma robots. Robots. Ma è la primissima infanzia. Noi qui trattiamo bambini già nati. Ma e poi insomma è l'asilo che lei amministra, amministratore. Dobbiamo risparmiare sul cibo. I conti non sono buoni. Qui però la mensa passa solo finocchi cotti, ci sono anche delle lamentele. Dateglieli crudi, cuocerli costa. Grazie, va amministratore, bene? Grazie, perfetto. Grazie. Sempre utilissimo. Ottimo grazie. Consiglio. Va bene. Intanto, ma lei cosa sta mangiando? Cos'è quella roba lì? Buona con le patate. Una cotoletta? Sì. Alla milanese. Bella fritta. Buona. Tutti i colleghi con le cravatte, belli. Ma colleghi di cosa? Altri amministratori come lei? Scienziati. Scienziati come me. Per i robot. Noi dalla teoria facciamo nascere la pratica rivoluzionaria. Quella che risolleverà il mondo con le nuove generazioni. Tutte storpie. Va bene? Grazie amministratore. Grazie. Lasciatemi lavorare. Buona cotoletta. Il dessert. Il cioccolato e pere, sì. Cioccolato e pere, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Vaffa e litigi, scandalo e sconcerto. A Palazzo Chigi vogliamo il bimbo Alberto. Ed oasi, un'altra quartina che ci arriva da questa ragazza, ragazzo, che si chiama Text Decoration Non Color Hadadad, Text Align Right Border Top LPX Footer Hover, però in realtà si chiama M. da Foggia. Allora grazie, continuate a mandarcele, chiedo asilo, è radio24.it. Il aprile non c'è più, è ritornato maggio del canto del cucù.